Chitarre sollevano le corde sulla bocca nera. E una mano agita le dita di fuoco. Chi piange, chi frusta i cavalli nell'aria rossa, chi piange, io no, la mia razza a coltelli che ardo nel luce. E ferite che bruciano, la mia terra è sui fiumi stretta dal mare, nello specchio infinito della luna si pettinano fanciulle col petto d'arance. Chi piange, io no, credimi, sui fiumi corrono esasperati schiocchi d'una frusta cavalli. Ferite che bruciano, chi piange, chi piange, io no, credimi, io no.